Buonasera, benvenuti, ben ritrovati. Ciao. E oggi non presentiamo questi due libri, cioè proprio li escludiamo dalla conversazione. Francesco Nicodemo è l'autore di Disinformazia, anche un sottotitolo lunghissimo, La comunicazione al tempo dei social media. Tienilo, poi mi metto Maurizio Costanzo. Buonasera. Antonio Paolini scrive un libro per Informante, la casa editrice del nostro comune amico, che si intitola Oltre il rumore, perché non dobbiamo farci raccontare internet dai giornali e dalla TV. Devo dire che parla anche di molto altro. Se lui sta un topic sul titolo, tu sbrodoli. Sono due libri che parlano fondamentalmente di cosa sta succedendo in questo momento, forse di cosa è successo negli ultimi tempi, e probabilmente si pongono il problema di cosa accadrà e di come farci qualcosa. Perché li presentiamo assieme? Proprio perché hanno in comune questa caratteristica di mettersi a descrivere un momento. Non siamo ancora nella fase in cui dobbiamo decidere cosa fare lì, per migliorarlo, per cambiarlo. Siamo nella fase in cui chi ha testa, chi ha visione, chi ha esperienza del mondo, e le professionalità dei due che tanto conoscete giustificano il fatto che possono occuparsene, deve raccontare, deve descrivere, deve parlare forse di quello che accade a un noi, con la N maiuscola, di cui non traccio i confini, ma però che ci riguarda tutti quanti. In qualche modo tutti qui dentro apparteniamo a quel noi. Viviamo un pezzettino di vita in rete, buona parte di quello che facciamo offline riverbera online, buona parte di quello che facciamo online riverbera offline. Qua è tutta gente che si è conosciuta tramite internet, forse giusto io e te per questioni radiofoniche. Io ho conosciuto mia moglie a un villaggio turistico nel 97. Perfetto. Io mi sono fidanzato con una blogger, cioè la mia compagna è conosciuta via internet, quindi si fa. A parte lui che è ancora questo. Perché so, di un uomo dell'altra epoca forse. Sono anche due libri che parlano di cosa è successo al dibattito pubblico in questo paese, oserei dire nel mondo occidentale ultimamente, ma diciamo in Italia negli ultimi anni. Vi voglio fare una domanda che si fa normalmente quando c'è una disgrazia in corso, no? Che sta succedendo? Oh mio Dio, immaginatelo, ma la domanda è: cosa sta succedendo? Chi comincia? E prova a darmi una risposta così, prego, fate voi. Ma che c'è nel mondo? Cosa sta succedendo? Perché questi libri nascono da una necessità di raccontare cosa sta succedendo. Che sta succedendo? Ma sta succedendo che siamo in una fase di grande transizione tecnologica, che a noi analogici sta cambiando in qualche maniera le coordinate spazio-temporali, molto di più dei digitali, cioè tipo mio figlio, che vive questo cambiamento tecnologico in maniera molto diversa, e questo cambiamento tecnologico sta comportando una maniera di accedere a informazioni e quindi determinare una serie di scelte di vita che sono completamente diverse a quelle che eravamo abituati rispetto a qualche anno fa. E quindi la verità è, come dico sempre quando vado a giro nelle presentazioni, non siamo una cagnolina laica in questo momento, cioè siamo un esperimento buttato nello spazio che non ha gli strumenti per sopravvivere nello spazio, però sappiamo che il nostro sacrificio permetterà ai nostri figli di vivere questo ambiente in maniera molto più decente come lo facciamo noi. Questo lo diciamo a beneficio dei bambini che ci guardano. Chiameremo il telefono azzurro per i genitori. La cagnolina laica, contrariamente a quanto ci hanno detto, muore nello spazio. Certo, cioè, no, perché è una roba che si vede la cagnolina che sbarca la comunicazione. Ci siamo la cagnolina laica, perché insomma, siamo destinati a soccombere a questo cambiamento. Cioè, non lo comprenderemo appieno, mentre invece se noi i nostri figli saranno in grado di farlo meglio di noi. Sempre in questo caso, mi collego tanto, adesso mi dici la tua su questo. Diceva, lo conosciamo tutti per una canzone dei CSI. Io ho un'idea che in questo sta succedendo, è una citazione letta da Fenoglio, ho una irosa sensazione di peggioramento. È vero o no? Che c'è una irosa sensazione di peggioramento. O che c'è un peggioramento. Allora, il problema principale è che gran parte delle analisi che si fanno del momento in cui siamo vendono la sensazione di essere in un nuovo status quo, e non trovarsi invece, come penso io, all'inizio di un processo di cambiamento che richiederà molto ma molto più tempo. Cioè il problema è che gran parte dei racconti che io sento fare partono dalla premessa per cui, ok, non siamo più nel mondo A, siamo nel mondo B, e quindi adesso vivremo nel mondo B. No, siamo nel mondo A, 0,000001, e deve passare tantissimo tempo. E questo, secondo me, è il problema principale, che ricorda un po' quello che accadde la volta precedente, quando ci fu una rivoluzione nella comunicazione, nell'accesso democratico alla comunicazione di questa portata, cioè quando, per esempio, a metà del 1400 venne inventata la stampa a caratteri mobili. Ecco, molti chiaramente già ai tempi gridarono al crollo delle basi della società che questo più facile accesso alla comunicazione avrebbe permesso, e lo fecero nei primi 10 anni. Peccato che il risultato finale di quella rivoluzione, di quella transizione tecnologica, perché di questo parliamo, si cominciò a vedere dopo 50 anni, perché dopo 50 anni erano stati stampati con quella tecnica 30.000 testi, che erano pochissimi in realtà, per un totale di 12 milioni di copie, però già questo significava, oh, forse risolviamo l'analfabetismo, no? E dopo 50 anni, e chiaramente poi in questi 50 anni si scatenarono, non dibattiti amichevoli come quelli che stiamo facendo noi qui adesso, ma guerre di religione, ma anche guerre proprio con, insomma, guerre di guerre, guerre con la spada, eccetera, quello, insomma, molto truculente di quegli anni, e quindi io temo che oggi l'errore principale che si fa è non solo siamo nel guado, ma siamo proprio all'inizio del guado, ed è difficile, cioè i danni che stiamo subendo sono i danni del vuoto, non di uno status quo al quale dobbiamo abituarci. Adesso c'è il problema della guerra, io faccio sempre, scusate, un esempio un po'... Vuoi fare un peggior di Laika, direi, sì, che... peggiore di Laika. C'è Alfredino Rampi, cioè, poi abbiamo finito... Io penso che per tutti il fatto che non si spari più a Palermo da 20 anni non è il segno che adesso va tutto bene, che abbiamo sconfitto la mafia, eccetera. No, vuol dire che ci sono dei nuovi poteri lì dentro che garantiscono che nessuno si spara più, fondamentalmente. E questo purtroppo non è un problema. Adesso ho fatto l'esempio più... anche poco rispettoso nei confronti dei siciliani, perché è una situazione in realtà che sale molto come latitudine ben alti. Perché la mafia non spara più, semplicemente no, perché possiede 2/3 delle pizzerie di Milano. Per esatto. O l'intero quartiere Isola a livello immobiliare. Ecco, allora, per lo stesso motivo, in realtà, quando tutto è molto stabile e fermo, eccetera, non vuol dire che siamo in un mondo protetto, in un mondo dove i nostri destini sono più sicuri. Adesso siamo in una fase di trasformazione dirompente di cui non vediamo assolutamente la traiettoria. Esatto, dove la traiettoria. Perché c'è troppa poca corsa. Però nel frattempo tutti devono dire, per esempio, che siamo in un mondo B e che le cose andranno male per via del mondo B in cui ci troviamo. Ha fatto molto bene Francesco a dire che è un problema che accavallerà, cioè scavalcherà completamente la nostra generazione. Posso legarmi una cosa che diceva? Sì, diciamo per questo. Io uso sempre il tema della stampa, no? Cioè tu a un certo punto cosa c'hai? C'hai nella storia l'emergere di una serie di forze sociali che ha la necessità di una maggiore circolazione della cultura. Quindi questo orafo tedesco prende una macchina da presta per Oliver e si inventa la stampa. E poi grazie all'invenzione di Manunzio a Venezia della forma libro viene costruita proprio il supporto dove fa circolare in maniera più veloce la... Ora teniamo presente che in quel periodo la maggior parte dei testi erano testi sacri, come puoi immaginare, e che come dove erano riprodotti? Erano riprodotti in questi monasteri dai copisti, dove i monaci manuezzi stavano là e ci mettevano anni a fare questi manoscritti. Quindi qual è l'effetto immediato? Che un maggior numero di testi a costi inferiori, molto più bassi, incomincia a circolare. E cosa succede quando le persone hanno il diritto di leggere cose che non potevano leggere? Perché se io ho il diritto di leggere, significa anche il diritto di interpretare in qualche maniera, no? Di pensare. Di pensarci, no? Ecco, benissimo. E cosa succede di lì a qualche anno? Cioè, veramente, perché scattano le guerre di religione? Perché, ed adesso è stato il 500° anniversario, un monaco agostiniano tedesco, di ritorno a Roma, più più o meno come era adesso, diciamo, non c'era la Raggi, ma comunque le cose erano un po' un casino. Il traffico era un po' più veloce all'epoca a cavallo. Scandalizzato alla vendita delle indulgenze, torna e nasce anche là, no, la mitopoietica, la fake news, le 95 tesi affisse sulla cattedrale. Che è noto che non furono non sono, 95, non, so, non furono neanche appese. Il problema è che non furono mai affisse, però il problema qual è? Che lui veramente scrive queste 95 tesi, che adesso senza entrare in questioni, come dire, teologiche complicate, il tema era fondamentalmente, io non ho gli strumenti, tu sicuramente sì, il tema qual era? È che il Papa non era l'unico che aveva l'autorità, l'autoritas, di interpretare i testi sacri, di lì quindi, come dire, c'è un cambiamento, una tecnologia abilitante che permette un cambiamento culturale, che permette fondamentalmente la nascita di un movimento riformatore della cristianità. E che succede? Che la Chiesa di Roma si incazza, come direbbe un film degli anni 70, la Chiesa di Roma si incazza e partono 150 anni di vere guerre di religione. Ora, ma immagino che in quel periodo, 150, cioè, i nostri progenitori non è che sapessero bene in quel periodo, no? Perché la guerra porta fame, carestie, violenza. Però noi, se guardiamo quel periodo, guardiamo tutte le luci, no? Noi non possiamo guardare con prospettiva. Ricordiamo che in quel cambiamento tecnologico, economico, sociale e quindi anche culturale, uno scienziato toscano di nome Galileo Galilei butta giù la costruzione della cultura medievale, che è basata sul principio di autorità, sull'ipse dixit, costruendo il metodo scientifico. E fondamentalmente, per tagliarlo con l'accetta, dice: una teoria per essere valida non è così perché è scritta in un testo, no? Ma è così perché è... deve essere sperimentato, c'è bisogno di una comunità di scienziati che poi alla fine la certifica. Ora guarda che questo l'ho raccontata così, l'ho semplificato, però il tema credo sia chiaro, il cambiamento di paradigma. No, però guarda, in realtà è molto simile a quello che ha rappresentato la rete, perché tu c'hai un processo di democratizzazione delle informazioni, con un aumento delle fonti, ok? Stamp, rete, libro, social network, bla bla bla, tutte queste cose. Contemporaneamente c'è il fatto che questa capacità del singolo di leggere, quindi interpretare, di esprimere un'opinione, è esattamente quello che succede con la rete. Tu hai permesso a un miliardo di persone su questo pianeta in questi ultimi 10 anni di avere accesso diretto alle informazioni. Però le persone non è che sono degli ebeti che stanno là e ricevono sulle spugne, no? Come era la rete 1.0. Ti ricordi? No, non è 1.0, tu devi soltanto stare là a leggere. E sono un consumatore. Nella rete, invece tu diventi anche un produttore, diventi anche tu un'antenna che produce. E quindi quello che è messo giù, il tema vero per cui alla fine quelli bravi, cioè le classi dirigenti, i politici, i giornalisti sono spaventati, perché quello che è venuto meno in questa fase iniziale, almeno della rete, per come l'abbiamo conosciuta, è il principio di autorevolezza. Di autorità, quindi poiché lo dico io è sicuramente giusto, e il tema della gerarchia delle fonti. Però, come dire, cioè, siamo sopravvissuti alla fine della cannonina laica, possiamo anche sopravvivere alla fine, diciamo, dei buoni maestri che ci spiegano come il mondo. Anche se facciamo finto che io faccio una domanda ingenua, io sono sempre stato un ottimista. Di quelli forti, ottimista, ista di sinistra, c'è stato un periodo in cui lo fui, alle soglie del determinismo tecnologico, ero uno che pensava che il progresso anche solo materiale avrebbe risolto, non dico il 100%, ma il 60% dei nostri problemi. Le sorti progressive. Le magnifiche sorti progressive, esattamente quella cosa lì. E ci credevo al punto che pensavo bastasse questo quantomeno a risolvere un pezzettino di problemi della parte del mondo che ha meno problemi degli altri, che è quella in cui viviamo, so che sembra incredibile così, perché molti come me in questo momento, non io personalmente, ma molti come me stanno dicendo il contrario, stanno dicendo, momento, forse è la prima volta in cui si stava meglio prima, non solo, ma forse qualcosa che facevamo prima lo dobbiamo recuperare. Cacchio, il progresso per la prima volta ha beccato la via sbagliata. Forse l'hanno detto con la bomba atomica ancora e ha fatto qualche morto più di adesso. Perché c'è questa sensazione negativa che forse è anche suffragata da alcune prove, faccio l'avvocato del diavolo. Abbiamo un completo imbecille presidente degli Stati Uniti, pericoloso. C'è un ritorno a la rete, a un internazionalista come me era il sogno, abbattiamo tutte le barriere, finalmente dirmi qualcosa col famoso aborigeno di Guzzanti. E invece siamo al ritorno dell'identità, perfino dell'identità più odiosa, quella che Remotti, contro cui Remotti, l'antropologo, scrive il libro contro l'identità, l'identità tribale, l'identità di sangue, eccetera, eccetera. Tu citi, quando si parla di balcanizzazione della rete, tu dici polarizzazione proprio più raffinata. Chi è che porta? Parlavi tu in un rom camp di balcanizzazione, se non sbaglio. Rom camp, parlavo di coda lunga delle opinioni. Coda lunga delle opinioni, ok. A un certo punto parla di balcanizzazione della rete, come vedete non ho letto il libro, ho divinato cose mettendo la mano sulla copertina, e si sta balcanizzando il dibattito pubblico tutto, e l'impressione, forse sbagliata, è che questa cosa sia venuta dalla rete, eppure io ricordo Funari, era sì su una rete ma televisiva. Mi ricordo Funari, guarda, posso dirti una cosa, aperte virgolette, non siamo pronti, chiuse virgolette, è un refrain che vale adesso, così come valeva per i prussiani quando fu votata la Costituzione di Weimar. La Germania non è pronta per la democrazia, infatti poi abbiamo visto. Poi magari se non gli chiedevamo 132 miliardi di marchi oro c'era qualche chance in più. Non eravamo pronti per la bomba atomica, la catena di comando, i centri di potere non saranno pronti, scrive Einstein nella lettera a Roosevelt. E ora non siamo pronti per la rete, non siamo pronti, siamo inadeguati. Siamo inadeguati anche perché quello che riversiamo come contenuti è esattamente quello che ha seminato per 30 anni l'ecosistema dei media 0.5, no? Negli ultimi 30 anni. Cioè è chiaro che, adesso facciamo un discorso un po' autoreferenziale, gente come Enrico, come Francesco, sono persone, anche come Samantha, sono persone che sono sulla rete da 20 anni più o meno, insomma, e per 15 anni sembrava... Restava all'elementare, sì, lo so, vabbè, però comunque, stavi all'elementare, però comunque hai sempre avuto una grande curiosità per questa cosa, fin dall'inizio, cioè. E vedevi che c'era la gente che rispettava una cosa che si chiamava un'etiquette, cioè alcune cose si sapeva che facevi la figura del cretino, più che del maleducato, no? Poi dopo abbiamo visto che anche da soli abbiamo creato l'ambiente iper cinico ed iper aggressivo per conto nostro. Stiamo parlando di Frenzy Lunga, esatto. Volentieri. L'abbiamo creato, quindi non è che eravamo assolutamente migliori, però il problema è che succede quando arrivano in massa, e sono arrivati ragazzi soltanto negli ultimi 5-6 anni, 20 milioni di italiani, parlo solo dell'Italia, tutti insieme su Facebook. 20 milioni che fino a 5 anni fa sono stati imboccati con Funari, Sgarbi, che dà lo schiaffo ad Agostino, anzi il contrario, gli butta l'acqua. Lui butta l'acqua, Giuliano Ferrara nel mezzo, che era il suo peggio. Cioè, in quel momento i padroni della figaggine della nuova televisione, i grandi guru della TV, gli Antonio Ricci, facciamo nomi e cognomi, sì. Antonio Ricci, i Freccero, questi personaggi qua sono esaltati perché la nostra televisione ha cambiato completamente lo stile di comunicazione. Si crea in Italia una cosa simile a quella che successe in Spagna quando è morto Franco, cioè il desarrollo e il cambio. In Spagna ha prodotto tutta una stagione di cinema incredibilmente innovativo, libertario, frufru, eccetera. Da noi ha prodotto Berlusconi. Ma Berlusconi come fenomeno, Come politico. Sì, no, non come politico, assolutamente, hai ragione Enrico, scusa. 30 anni di questo tipo di sdoganamento, di nuovi linguaggi, nuove volgarità, e nuovo anche il ruolo della donna, completamente... Svilita. Noi ce la prendiamo con la TV bernabeiana che copriva le gambe alle Kessler, però insomma non mi sembra che sia andata molto meglio poi con Drive-In... eccetera. Adesso è un discorso un po' complesso. Però... Dovremmo citare Engels, che dice che la balla della femminilità è uno dei modi con cui l'uomo domina la donna. Assolutamente, è vero anche questo, però insomma, quello che voglio dire è che non citiamo Engels, 30 anni di queste cose, no, Engels, no? 30 anni di queste cose le dai a persone di, diciamo, livello culturale che conosciamo, poi la rete ci ha anche rivelato il nostro famoso analfabetismo, quanto eravamo predisposti anche a questo. A queste persone dai una tastiera, che cosa vuoi che ti restituiscano? Allora, Io penso che queste analisi che vengono fatte non solo, adesso non parlo solo del libro di Francesco, il libro lo consiglio a tutti di leggere, perché davvero traccia una fotografia dello stato dell'ecosistema di informazione italiana in questo momento e tutti i cortocircuiti, quei populismi, eccetera, è assolutamente da leggere. Però c'è tutto un filone di libri, un altro libro molto bello, quello di Giovanni Zeccardi sull'odio online, libri sul cyberbullismo, eccetera, che fanno un lavoro straordinario di raccolta di prove, anche con grande rigore scientifico, con grandi citazioni, eccetera, però vanno tutte contro un solo imputato, che è appunto la disintermediazione e quindi la transizione tecnologica che lo abilita. Se lo stesso rigore venisse applicato, cosa che io non riesco a fare nel mio libro, perché il mio non è un libro scientifico, non è un saggio, l'hai letto, hai capito che è una cosa completamente diversa, però se qualcuno facesse quello che faceva Carlo Sartori quando scrisse Cattiva maestra televisione adesso, avremmo una chiave di lettura diversa. C'è un libro di Cazzullo contro i cellulari che esatto. Forse non è neanche il luddismo, è il neomoralismo cavernicolo. Esatto, quindi diciamo l'unico diciamo elemento. I giudizi pacati. Sì, no, ma il libro di Cazzullo è straordinariamente esemplificativo della situazione in cui ci troviamo, perché è semplice, ti riporta plasticamente esattamente il famoso perché non dobbiamo farci raccontare internet dai media tradizionali, perché Cazzullo la pensa in quel modo. Perché gli adulti non devono spiegare ai ragazzi, sì, anche nell'ultimo capitolo anche del mio libro dico, quando si dice fate educazione nelle scuole, ragazzi, cioè, bella paternale, come piace a noi. Ma tu pensi veramente che chiunque possa arrivare capillarmente nelle scuole e spiegare la rete ai ragazzi? In questo momento chi va nelle scuole a spiegare la rete ai ragazzi? I poliziotti, la polizia postale, va. Cioè, cyberbullismo, è un libro di cui parlano nelle scuole. Sono i repressori che fanno un lavoro fondamentale, che però fanno la formazione, fanno la prevenzione. Noi stiamo dando ai repressori il compito di fare la prevenzione. E questo la dice lunga non solo sull'inadeguatezza, diciamo così, dei destinatari finali, no? del momento che stiamo vivendo, ma anche di quelli che dovrebbero agitarsi per risolvere la situazione. In questo scenario qui, cito sempre, mi è antipatica e la trovo inutilmente polemica, ma lo dico lo stesso, in un famoso contesto in cui qualcuno ha stabilito che uno vale uno e non lo ha stabilito Beppe Grillo, scusatemi, lo ha stabilito un'intera generazione che è stata coltivata a suoni di se ci credi davvero lo puoi diventare, sii te stesso e avrai successo. Queste sono pedagogie negative che si basano su un principio. Cioè il principio che l'autorevolezza, che non è l'autorità, è morta. C'è stato un anno, non so esattamente il giorno, in cui professore, deformato in professorone o professorino, è diventato un insulto. È vero. C'era una trasmissione nel 94 del Berlusconi politico, ma anche della visione di questa maleducazione, che non ha origine a destra, eh. Credici molto e puoi diventare tutto quello che vuoi. È una roba che i padri progressisti dicono ai figli. La trasmissione aveva una sigla che diceva il giornale te le monta, il TG te le racconta, ma la gente, lei lo sa, dove sta la verità. Questa sigla spiega perché l'assessore all'istruzione del comune di Torino è una persona che ha come qualifica per fare l'assessore all'istruzione il fatto di essere mamma e professoressa di tecnica alle medie. Non so se rendo l'idea, però facciamo ministro dei beni culturali e della cultura un pittore della domenica. Allora, non stiamo a cercare di capire quando è morta l'autorevolezza, però non è vero che tutti gli enti portatori di autorevolezza, molti di questi enti, col passare degli anni si sono rivelati un po' inadeguati. Cioè, se esistono dei corpi intermedi che portano autorevolezza, dignità, eccetera, eccetera, come ricostituiamo la filiera del buono e giusto nel sapere? Se, per esempio, uno come me, che, come dire, nasce e morirà di sinistra, non crede più alla CGIL, e non ci crede eticamente, umanamente, eccetera, eccetera. Se è normale che un non laureato in medicina dica un medico che scrive ma cosa ne sai tu? Cosa si può fare costruttivamente per cambiare questa situazione qui? Io penso un po' abbiamo sbagliato i corpi intermedi che portavano l'autorevolezza. E che fanno? Si scusano? Ricostruiamo i nuovi corpi intermedi? Viviamo senza? Io questa visione è un po' negativa. Cioè, per essere morta l'autorevolezza c'è stato un tempo in cui l'autorevolezza esisteva. Io contesto che sia esistito un giornalismo di qualità e se non esiste più, contesto che adesso, contesto l'idea che sarà meglio prima di quanto si sta adesso. Non è proprio questo. Se per una volta sì, però in estreme conseguenze alla fine questo arriva, no? Cioè il messaggio che arriva è questo qua, invece uno dovrebbe avere il coraggio di dire che non c'è mai stato un periodo così felice per il mondo come questo. Questo lo penso, però fammi vedere. No, c'era un periodo in cui gli ignoranti si vergognavano. Aspetta. Scusate, è un momento torinese. Mi fastidio. Però li hanno votati, Enrico, e quindi è giusto che governino. No, questo è un presupposto, perché altrimenti noi dobbiamo considerare superate le democrazie liberali. Io penso che funzioni ancora. Allora, in questi dieci anni il mondo è stato molto meglio rispetto a 10 anni, da tutti i punti di vista. Mortalità infantile, scolarizzazione di massa, numero di conflitti, numero di abbattimento delle malattie. Ma non sono le sorti progressive, queste, scusa l'interruzione, non sono anche l'effetto delle famose sorti progressive. Non è che il progresso si è fermato, cioè di cui parlava Enrico. Io continuo a pensare invece che il progresso non si ferma, che bisogna continuare ancora a credere nel progresso. Qual è il tema? Perché noi siamo degli egoisti occidentali che siamo abituati a guardare il mondo nel nostro micro giardino. E lo guardiamo come giustamente per il fatto che in questi 10 anni la crisi economica, il tema della globalizzazione, l'emigrazione, la minaccia terroristica, la distanza tra il voto e il luogo della decisione, in qualche maniera, no? Che poi il vero tema, è che le classi medie delle democrazie occidentali, di tutte le democrazie occidentali, non soltanto l'Italia, ha subito un processo di impoverimento e di allargamento della forbice tra i più ricchi e più poveri, va bene? Quindi il tema si chiama reddito e lavoro, va bene? Il reddito e il lavoro, se io voto, se io sono un elettore, va bene? E l'offerta politica a destra o a sinistra mi propone inevitabilmente più o meno le stesse ricette, e quindi se il patto sociale, perché io ti voto rispetto a un mondo, io ti voto perché voglio stare meglio di come sto, va bene? O almeno difendere le condizioni come sono. Se questo patto viene meno, io non ti voto più, voto ciò che è fuori dal menù, in questo caso i populisti. Quindi la questione non riguarda tutto il mondo, riguarda riguarda le democrazie liberali occidentali, riguarda l'Italia, riguarda la Spagna, riguarda la Francia, la Germania, riguarda la Gran Bretagna, riguarda persino la Svezia, riguarda la ricca Finlandia, riguarda anche gli Stati Uniti. Diciamo. E il tema, sai dal dramma qual è? Che non è manco quello che ci si diceva negli anni 90, che bastava che l'economia andasse bene, poi diceva quindi io vinco le elezioni. Non è così. Perché gli Stati Uniti di Obama il PIL era fortissimo, il numero di posti di lavoro era esagerato, eppure ha vinto, come dire, uno che era fuori dal menù, no? Perché Trump era fuori dal menù, dentro uno schema tradizionale destra-sinistra, liberal contro repubblicani. Quindi noi stiamo dentro a questo schema. Cioè, qual è il tema? Il tema è come si ricostruiscono i rapporti di fiducia tra il cittadino e le istituzioni, tutte le istituzioni, comprese le istituzioni democratiche, ed è questo in cui dovremmo... tra cui diciamo gli intellettuali le classi dirigenti dovrebbero esercitarsi, altro che fake news, post verità, la rete brutta cattiva. Questi sono gli effetti di una crisi, di una caduta della fiducia nei confronti di queste istituzioni. Allora, la disintermediazione, visto che la citava prima Antonio, è stato un momento fondamentale, perché se c'è una crisi di fiducia si è pensato di bypassare chi era demandato a costruire questa fiducia e faccio un appello direttamente al popolo. Vabbè, l'abbiamo fatto anche noi, che eravamo teoricamente quelli dei partiti costituzionalmente riconosciuti. Il problema qual è? Il problema è che la disintermediazione poi alla fine non basta, perché è asimmetrica, no? Perché tu riesci ad arrivare a tutti quanti con un messaggio semplice, saltando tutti i cosiddetti blocchi intermedi. Il problema è che nel momento in cui è necessaria la reintermediazione, cioè il fatto che quando tu governi, quando sei un partito, quando fai delle cose, quella roba, quelle riforme, no, creano una roba che deve essere gestita. Cioè tu devi saper gestire i conflitti derivanti dalla tua azione di governo. se non c'è strutture, corpi intermedi, associazioni, sindacati, partiti, che facciano questo lavoro, inevitabilmente tu hai una asimmetria, perché tu parli a tutti quanti, ma poi non ascolti nessuno, come direbbero, come direbbe l'amico liberato, e questa cosa non fa altro che aumentare il gap di fiducia nei confronti della democrazia liberale e quindi della democrazia di rappresentanza. Come la risolviamo? Ovvero sia, vi faccio uno scenario sempre preoccupato, premetto, sono quello più ottimista di tutti, ma devo fare le domande interpretando come dire, un sentimento purtroppo diffuso. Tanto che è uscito non molto tempo fa, che si chiama Teoria della classe disagiata, che sta generando litigi. Se avete voglia di litigare col prossimo, leggetelo, un classico libro che divide. Dice una cosa. Posso prendere un brano del libro di Francesco che mi è piaciuto molto? Certo, risponde, ecco, a questo. Prova a darmi una risposta su questo, perché no, parla della nostra generazione come classe disagiata. No, poi non parla della nostra generazione. Sì. Però quando Francesco cita l'economista Pisani Ferri, lui dice cose estremamente condivisibili. Suggerisce. È l'attuale consulente economico di Macron. Di Macron, sì, esatto. E sono tre modi con cui cercare di porre rimedio al clima di sfiducia. Detto proprio in modo, tra l'altro, estremamente semplice. Dice, in primo luogo, una maggiore disciplina da parte di associazioni, enti, strutture istituzionali, da parte della comunità di esperti, evidentemente si capisce che non c'è molta disciplina in questo momento, professionisti tecnici verso procedure più rigorose, quindi si raccolgono finalmente prove anche a carico di qualcun altro che non è sempre il disintermediatore. Insomma, sta dicendo ristrutturiamo i corpi intermedi con un principio di disciplina e acquistiamo facciamo in maniera che gli esperti riacquistino di nuovo fiducia. Quindi ridiamo un ruolo moderno all'autorevolezza, ecco, su basi però anche moderne. Ecco, questo è il problema, perché all'interno di questi mondi c'è una chiusura straordinaria che a mio modesto parere, non sono un economista. Come mi dicono che la scienza non è democratica. Esatto. Allora, adesso non voglio... Burioni è davvero la figura che plasticamente rappresenta davvero questa volontà di mettere davanti la propria appartenenza a un mondo chiuso e che non cambierà mai rispetto al ruolo che ha la scienza. No, perché c'è molta gente che dice no, tutti dovrebbero blastare, tutti dovrebbero essere come burioni che prendono a scurisciate di ignoranti. No, ci arriviamo dopo. Questo, so che dico che tu hai idee forti su questo e voglio anche il tuo parere. Poi, questo è io non ho scritto libri, quindi... Il primo punto. Poi c'è il secondo punto. I cittadini devono essere messi in condizione di disporre degli strumenti intellettuali necessari per distinguere tra realtà e finzione, e non siamo pronti assolutamente, anche perché veniamo da una comunità da 30 anni di leve emotive, e tu che sei il copy lo sai meglio di me, insomma, ci pago le bollette, ci paghi le bollette con le leve emotive, sì. E poi infine bisogna ripensare a forme e luoghi nuovi e rinnovati per incoraggiare un dialogo informato e dunque costruttivo. Poi c'è Francesco che... Qui ci urla un po' nel manico, il terzo punto, perché è facile. Poi troviamo un posto dove non ci picchiamo. No, ma però la premessa è aver fatto i primi due punti, sì, credo. E qui poi Francesco elogia il pensiero di Pisani, ci si riconosce molto e lo cala nella realtà nostra e anche in quella che è la sua passione politica. Insomma, traspare da tutto il libro, che forse è uno dei motivi principali per leggerlo. Perché mi dici che... lo chiedo a te, Enrico... Che forse invece ci vorrebbero più burioni, potrebbero volerci più burioni. No, io penso esattamente il contrario, cioè non sono per niente, anzi io non amo la cultura del blasting, per un motivo. Enrico Berlinguer, che era una persona che ultimamente, negli ultimi anni, è stato oggetto di una profonda revisione del mito, io sono stato allevato nel mito di Berlinguer, mi chiamo perfino Enrico di nome, e Vladimir di secondo, questo per farvi capire da dove vengo, e... Una volta scrisse che non bisogna avere orrore degli ignoranti, ma delle cause dell'ignoranza. Gramsci diceva, andiamo incontro alle masse, Gramsci che imprigionato si auto-obbligava a leggere i rotocalchi, i magazine femminili, eccetera, per capire, no? Per anni si faceva la battuta, andiamo incontro alle masse con una mazza ferrata. E questo è un po' un atteggiamento che... facendo un attimo da parte di quelli di sinistra, abbiamo fatto. Ma non solo, adesso si invoca di rinunciare al suffragio universale, scherzosamente, però è un po' davvero calare le brache rispetto a... E quello è un tema... alla formazione, certo, l'ha scritto Gramellini. Gramellini è stato il primo a scrivere questa cosa in maniera aperta, dicendo per fare il pilota ci va un brevetto. E facendo il pilota tu decidi le vite degli altri. C'è un pilota a un certo punto che era depresso, era austriaco, se non sbaglio si è andato a schiantare contro una montagna perché ha litigato col fidanzato, con la fidanzata. Bene, disse, perché quando tu col tuo voto decidi degli altri? Pensa a chi... ha votato Trump e contemporaneamente ha generato a cascata, a ripple effect, tutti i drammi che sta per creare, che ha già creato. Pensa ai poveri immigrati che si trovano divisi dalla polizia, famiglie rotte dopo 20 anni di unione, eccetera. Il tema è questo, che raramente si mette a tacere uno che non sa, dicendogli non sai. Secondo lui, anche se è vero, anche se hai ragione, e il tema di come si comporta chi ha ragione, credo, nella comunicazione politica è fondamentale. E ancora non l'abbiamo risolta. Due. La soluzione al problema non è mettere a tacere gli ignoranti. Perché anche se li hai messi a tacere, non hai risolto il problema per cui questi esistono, si fanno danni e in generale non contribuiscono alla società. Allora, in una società post-hobbesiana, non più basata sulla paura, e stiamo tornando verso questo, Hobbes dice che abbiamo costruito la società perché non ci fidavamo l'uno dell'altro. Allora, le istituzioni ci mettono un po' al sicuro. La società post-hobbesiana, imporre il dominio della ragione a mazzate o a blastate, come si dice adesso, non funziona. Il mio timore, parlo da elettore probabilmente del PD, è tipo che il PD mi cambi di Burioni, credendo anche di aver fatto una mossa furba, prende anche il seggio da qualche parte, e che diventi un prototipo, che diventi un modello questa cosa qui. Ricordiamoci che la sinistra da sempre non chiede agli elettori l'adesione a un programma, ma l'adesione a uno stile di vita. La sinistra vuole, per sua formazione, poi è arrivato Renzi che ha cambiato un po' le cose, ma non a sufficienza, vuole che gli elettori diventino di sinistra, non che votino una proposta prodotta dalla sinistra. È una questione forse addirittura antropologica. Secondo Michele Serra dovremmo tutti comprare dei pantaloni di fustagno, di quelli che pizzicano anche d'estate. Sì, vabbè, questo quello è sempre per... vado per, diciamo, diventato il capo dei moralisti. Esatto. Che poi, lo ricordiamo, quando l'attualità non gli dava lo spunto, anche lui se la prendeva con il web, no? Come categoria. Cioè, nel giorno disparo in cui non succedeva qualcosa da commentare, perché? Perché insomma era facile. Ora però sono contento del fatto che ha un po' smesso, il che può voler dire o che si è... diciamo, o che hai smesso di leggerlo, di come fa. No, io continuo a leggere con piacere Repubblica per molti motivi, anche se non mi riconosco nella linea editoriale, però o perché si è arreso, no? Perché molti si arrendono, oppure forse perché lui stesso ha capito che stava facendo un po' la guerra ai mulini a vento, nel senso che è andato un po' più dietro il perché poi alla fine questo strumento gli ha tirato fuori, gli ha fatto vedere per esempio che sono l'analfabetismo funzionale, oppure vi ricordate, scusatemi, la Blue Whale, no? Sì. Il caso del Blue Whale che lui commentò è un caso dove prese secondo me una grossissima cantonata, perché nessuno in Italia avrebbe mai parlato di Blue Whale e nessun adolescente avrebbe provato a tagliarsi, 2 o 3 casi ci sono stati, se non fosse stata resuscitata quella vicenda dai media, dalla televisione, da un servizio televisivo di pare Italia 1. Speranzosi, perché esatto. È come il knockout game, cioè, quella roba, ne parlano ciclo, sperando che prenda. Il ciclo di quella notizia era finito in Russia, dove già era passato sui giornali, eccetera, circa 4-5 mesi prima, era già finita, però in Italia ancora c'era un mercato per quella notizia. E lui ci è cascato con tutte le scarpe e Blue Whale è nato per via di internet. E quella è stata forse l'ultima volta, perché prima ne aveva prese tante altre, adesso ha smesso e forse anche lui per non sbatterci la testa da solo, senza un Burioni della rete che andasse lì a dirgli guarda, non hai capito, cioè, alla fine, siccome una persona intelligente ci è arrivato. Allora, fondamentalmente, scusa, faccio una domanda che la butto qui e secondo me lui c'è una risposta, spero, devi risolverlo. Tra Burioni e Burino c'è una terza via su cui possiamo costruire qualcosa? Allora, abbiamo visto cosa diceva, come dire, il Taddei di Macron. questo dato, ne parlavo con Luca Sofri. Lui chiama questo fenomeno complessivo, questa cosa, perché non riesce a dargli un nome, chiama una cosa. E parlottando così ci diceva, ma l'ultima volta che c'è stata questa cosa era il 29, è finita nel 45 inoltrato, ha fatto alcune decine di milioni di morti. Di milioni di morti. Allora, non è una visione ottimistica, come immaginate, però capisco il senso di abbandono, di helplessness dell'intellettuale, dell'autonominata elite. E ci sarebbe da aprire il tema delle eliti in Italia, ma lo lasciamo per il prossimo giro di Gin Tonic. Di fronte a questo fenomeno, io ho un po' paura che stiamo reagendo male, o no? Vorrei sentire due o tre parole di ottimismo, non solo fattuali, ma prospettiche. Tipo, ok, fino a qui tutto bene, va bene. Il problema non è la caduta, è l'atterraggio. È questo il problema, sempre per citare un film anche questo molto ottimista. Siamo sicuri, perché a me dicono, guarda, ma tutto, ok, c'è Trump, ok, in India c'hanno il loro Berlusconi, le Filippine c'hanno il loro Fini, sta succedendo una onirosa sensazione di peggioramento un po' a livello globale, volenti o nolenti questo si vede, il messaggio ottimista per il futuro non passa. Posso dire fino a qui tutto bene, ok, però l'esempio plastico sono le primavere arabe. Io poi una spiegazione, ma che bello, i ragazzi in piazza Tahrir, pieni di cellulari. Però è un mediatico occidentale la primavera arabe. Certo, ce la siamo inventata noi. Ce la siamo inventata noi. Però è vero che sono passati dal clerico fascismo, fascismo militare al clerico fascismo nei paesi... Da sotto. Il militare serviva a quello, come anche Saddam Hussein serviva a quello. Okay, anche l'esercito in Turchia. Come si fa? Pedagogia, io ho un figlio di 3 mesi. Cosa gli succede a mio figlio? Tra un po'. Che mondo gli diamo? Come facciamo per renderlo un po' migliore? La domanda facile. Ciao Nicodemo, dacci la ricetta per un mondo migliore. Allora. Non mi riga la macchina, viene ancora in apposta. No, no, no. Mi candiderei a presidente del Cosmo se sapessi come si fa a fare un mondo migliore. Penso ti voteremmo. Secondo me no. Però però quelle cose che avete detto in realtà mi stimolavano una considerazione. Allora, a me io non sono sorpreso che un ceto intellettuale, giornalistico, mediatico sia così spaventato dalla rete. Non mi sorprende, perché a noi sfugge che l'agenda comunicativa e informativa non è più dettata da questi soggetti. Non basta più un leader di partito, un direttore di un giornale o un editoriale del TG. No? E si è avuto un rovesciamento. L'agenda viene costruita da nicchie che si aggregano momentaneamente e determinano l'agenda comunicativa e informativa che da lì, dalla rete, poi parte e coinvolge anche gli altri. L'altro giorno, quello con la leader, ho capito perché quello con la felpa si mette la felpa. Perché no, tu sai perché non va mai a Strasburgo e a Bruxelles? Tu sai perché? Perché lui, poiché fa la guida turistica in tutte le città con la felpa, cioè quello... Non c'ha tempo, giustamente, sono 8.000 comuni. Bruxelles sulla felpa è lunga. No, ma sono 8.000, mentre fanno tutti 8.000 comuni, giustamente, non ce la fa. No, quindi sta a casa Booster Lego, sto là, arriva il turista cinese, dice, capisci, ah, ho capito, sto a capire. Questa è una battuta su Salvini, per chi di voi non Salvini, Salvini. Il leader felpato, che l'altro giorno fa quel tweet e dice, la nazionale è uscita perché ci sono troppi stranieri. Qualche anno fa noi avremmo interpretato una dichiarazione di quel tipo come tentativo di orientare l'opinione pubblica verso un determinato tema. Oggi, ragazzi, esattamente il contrario. Salvini percepisce che questo tipo di conversazione è prevalente in un pezzo dell'opinione pubblica sulla rete, e la sposa la fa sua. Guarda che è un rovesciamento clamoroso dell'agenda setting politica e comunicativa. Beh, allora, se le cose stanno così, è evidente che Mentana o Grillo, Renzi non sono più in grado di dettare da soli loro con un post, con una dichiarazione, con un'intervista l'agenda politica del paese, ma questo di per sé paradossalmente è anche un fatto positivo. Scusa però non lo vedo come un male. Quando eravamo al Festival di Pisa E si parlava dell'imbarbarimento del linguaggio della politica, di cui sicuramente. Però anche qua, imbarbarimento, ragazzi, ma negli anni 70 ci si sparava per strada. Sì, sì, no, no, ma io questa roba. Il problema principale è quello: negli anni della 70 massificazione del barbarimento. Ci si sparava per strada negli anni 70, però, quando torniamo al discorso mediatico, di quello si sta parlando, Pasolini e Armirante andavano da Giada Giacobelli in uno studio perfetto, a darsi del silenzio, lei. A darsi del lei, si poteva fumare in studio. Pannella fumava in studio e con straordinaria, diciamo, eleganza, entrambi fondamentalmente si auguravano la fine di tutto il modello culturale di riferimento dell'avversario politico, cioè si dicevano, si affrontavano temi serissimi con straordinaria eleganza. C'era la responsabilità del linguaggio verso il pubblico. Sì, poi ci si sparava per strada. C'era anche un tipo di comunicazione completamente diverso. Ci si sparava per strada, scusa Francesco, ma quello apparteneva alla fase politica di cui cioè il fatto che ci si sparasse per strada non era il frutto di una impostazione mediatica. Su questo credo che siamo d'accordo. Oggi il problema è che il modo in cui i media rilanciano il messaggio salviniano di adesso, ma anche di Bossi alla fine degli anni Ottanta, cioè lui aveva strumenti di ascolto del suo popolo molto meno potenti di quelli che ha Salvini adesso, però sentiva che nel popolo c'era qualcosa su cui poter costruire un discorso d'odio, di violenza, di contrapposizione e di irresponsabilità. Questo è un po' il problema. Amendoni a Pisa ha detto una cosa molto saggia. Dino Amendoni, io ogni tanto traduco dal pavolinese. Il pavolinese è molto autoreferenziale, è una persona che si occupa anche lui, come Francesco, di comunicazione politica. Sì, forse il termine imbarbarimento sembra scavalcare quel tema dei tempi molto difficili, da dove venivamo, eccetera. Però la responsabilità che hanno avuto altri media in quella fase non può essere considerata inferiore a quella che ha oggi lo strumento di ascolto più sofisticato e tutto quello che ci si può fare. E anche il discorso dell'agenda politica. Ecco, su questo forse non siamo molto d'accordo, nel senso che se guardi la conversazione su Facebook, la stragrande maggioranza, le 10 cose, diciamo, decise ancora nelle redazioni dei giornali, nei telegiornali, eccetera, sono le cose su cui ci scanniamo. Prima non ci scannavamo, ma oggi comunque ci scanniamo su temi decisi da altri. A me pare che stiamo parlando della famosa fear of missing in, cioè il giornale decide la notizia e tutti dobbiamo dire qualcosa. E tutti ci scanniamo. Chi aveva scritto qualcosa sui social, su Petaloso? Per fortuna io no. Normale. Però tutto il resto del mondo sì. Infodata ha pubblicato sì. i dati sugli italiani e il rapporto con la sì. politica e l'informazione politica. Cioè, Infodata dice che soltanto il 30%, solo il 30% degli italiani durante la giornata si informa di politica. Ora, la stragrande maggioranza, la stragrande parte dei TG, dei giornali è costruita esattamente sul chiacchiericcio, sul teatrino della politica, come lo volete chiamare. Cioè, lo vedi che c'è un Ma tu pensi se questo sondaggio, diciamo, l'avessero fatto 20 anni fa, gli italiani avrebbero detto ci interessiamo di più di politica. Secondo me cioè sì. Non è un po' come... No, appunto, cioè, sarebbe molto più ampio, sarebbe stato molto, molto più ampio. Cioè, io ho l'impressione, lo dico sinceramente, è che io non sono convinto che il livello politico è peggiore adesso degli anni 70 o degli anni 80, va bene? Che la qualità media del personale, cioè potremmo trovare, diciamo, beh, una volta c'era Berlinguer, uno va per nostalgia, non se ne esce più. Anche il dibattito Pasolini Pannella in TV è fatto su una TV che è un modo di comunicare, e alle persone si dovevano adattare a quel tipo di comunicazione, che era un catch all outlet. È rivolto a tutti i tipi di pubblico, all'operaio della grande città del nord, al contadino della Lucania, alla casalinga di Voghera, al barista di San Giovanni a Teduccio, no? Perché doveva essere in grado di parlare a tutti quanti. Adesso è un processo che è iniziato appunto negli anni 80, proseguito negli anni 90, con il digitale terrestre esploso. Siamo in una fase completa di frammentazione, segmentazione. Ma si chiama pluralismo? Cioè, ti parlo almeno del digitale terrestre. Non nacque sì, perché... Però aspetta, cioè, per il pluralismo è il fatto che tu ti puoi informare. Il digitale terrestre nacque per aumentare il raggio della fetta delle TV di Berlusconi. Non poteva aumentare sì, l'angolo, però, aumentato però, il raggio. Però qual è l'effetto? Che le reti non sono costruite per dare un tipo di comunicazione, per fare agenda, ma per seguire i gusti del pubblico, certo. che sono costituiti in nicchie. No? Cioè, noi su 999 canali. In questa sala, quanti ne guarderemo? 12-13 a testa, sono sicuro, noi guardiamo di più. Non ho l'antenna. Te ormai guarderai solo Rai Yo-Yo e... Ma quello, fortunatamente no, guardiamo solo Netflix. Però se facessimo breve, un sondaggio rapido qua dentro, tutti quanti più o meno guardiamo la Rai, molti di noi guardiamo la Mediaset. La 7. Qualcuno la 7. Poi, quali sono gli altri 5 canali? Mica sono gli stessi. Se ti guardi, che ne so, sei malato di caccia e pesca. Caccia e pesca o di Max, che ti piacciono le malattie più strane. Antonio, che è uno serio, si guarda la History. La moglie guardo, si guarda Paramount. Io guardo anche in televisione soltanto. No, per dirti, no. Quindi in realtà è che sono stati costruiti dei canali non per darci, come dire, per settare la nostra agenda, il nostro modo di pensare, ma costruite esattamente sul nostro tipo, sul nostro tipo di gusto, che poi in realtà poi è esattamente come è costruito la rete, no? La segmentazione, il filtro di bolla, le camere dell'ego, eccetera, eccetera. Noi siamo sempre di più chiusi dentro a delle nicchie virtuali. Quindi, o reali. Insomma, che quando l'hai letto il capitolo in cui dico che dovremmo smettere di farci dire non tanto cosa è vero e cosa è falso, perché il tema delle fake news mi sembra se ne stia parlando anche troppo, ma che cosa è rilevante e cosa non è rilevante per noi, è comunque un passo indietro. Cioè, in fondo, la tribuna politica con Jacobelli, Pasolini, Armiante e Pannella... Questo c'è dibattito, ragazzi, cioè, se notate, il dibattito c'è. Vabbè, qua è passato tre quarti d'ora di convenevole, insomma. Guantoni. No, dico semplicemente, non sarà mica che quella, non ce ne siamo accorti, è stata per tanti anni un'unica grande filter bubble, con un unico, diciamo così, contesto di riferimento che aveva grandissimi pregi, sottolinei, però aveva anche dei problemi, cioè l'idea di irregimentare dal punto di vista appunto dell'agenda, della discussione, l'opinione pubblica fino al punto di rappresentare per esempio l'atlantismo, no, del nostro paese. Se guardavi i telegiornali, aprivano con la politica estera, perché bisogna sempre ricordare implicitamente agli italiani che noi stavamo dalla parte dei buoni, e quindi c'era, che so, si apriva con la Corea. Qua ci sono i cattivi, qua ci sono i buoni. Poi dopo si cominciò ad aprire col Vietnam. E c'era sempre questa cosa. Poi c'era lo spazio della politica, tutto lottizzato. Parla il centro, parla la Democrazia Cristiana, parla il Partito Comunista, tutto organizzato in un certo modo. Aveva dei grandi pregi tutto questo. Però adesso, più che parlare di filter bubble, cioè di ricerca sempre di interessi all'interno di mondi c'è un grande consenso, io vedo spazi anche democratici, non vedo soltanto il confronto, non vedo l'incapacità di andare oltre ragionamenti superficiali, non vedo soltanto questo. È un mondo nuovo, chiaramente siamo tutti disorientati e anche un po' inadeguati per capirlo e comprenderlo più in fondo e trovare subito, appunto, come fanno molti libri, compreso in parte anche tu, trovare subito il colpevole, la soluzione. Secondo me è davvero gettare il cuore oltre l'ostacolo, che denota una straordinaria passione per il problema e volontà di risolvere il problema. Però ho la sensazione che abbiamo ancora raccolto pochi dati e poi nel frattempo scoppia la bomba atomica, ok? Oppure abbiamo raccolto prove a carico solo di un imputato. Ecco, ma soprattutto, e questa è la domanda che faccio, serve stabilire un colpevole? No, aspetta. A monte, adesso lasciamo la regola. In realtà io sono totalmente d'accordo con le cose che dici te. Stavo dicendo che non penso che è peggio adesso degli anni 70. E mi stai dando dimostrazione le cose che io dicevo esattamente prima, che non è che allora fosse meglio, no, perché alla fine era un mondo diviso in due blocchi fondamentalmente, e soprattutto era la rappresentatività sociale era molto più semplice, no? Ora siamo in una piena fase di società liquida, è chiaro che anche la rappresentazione politica, sociale, economica rappresenta un altro tipo di società. Io non vedo, figurati, cioè sono cresciuto professionalmente e politicamente con la rete, quindi non vedo assolutamente la rete come colpevole. Il dubbio che ho è che a me non mi frega niente del PD, di Grillo, di Renzi, di Trump, cioè sono tutti fenomeni che sono passeggeri, sono transeunti, sono cose degli uomini, cioè oggi sono, c'è un'altra elezione, c'è un altro. Vabbè, quello che trovo preoccupante semplicemente è che è messo in discussione la fiducia nelle istituzioni democratiche, del funzionamento. c'è tutto questo dibattito su possibilità fake news, cioè perché sta nei paesi democratici e non in Russia o in Cina o in Turchia? Cioè è una domanda retorica, non so, è una domanda retorica, però perché succede soltanto in questi paesi? Allora il tema è che io sono molto fiducioso che non siamo in grado sicuramente di affrontare il tema, però dobbiamo riconoscere le minacce, come direbbe il compagno Gramsci, siamo in una fase di transizione, una fase di crisi, di transizione, di cambiamento, e proprio per questo dobbiamo renderci conto che stiamo attraversando il crepuscolo. Ok? Cioè, l'alba, ci sta l'alba, lo sappiamo, no? Sta là, però giusto arrivato. Sì, no, purtroppo no. Sì. Però le ombre che dobbiamo stare attenti che le ombre che attraversano questo crepuscolo non diventino mostri che in qualche maniera rischiano di fermare il nostro percorso verso il sole dell'avvenire. Allora, la preoccupazione è questa qua, cioè io non credo che la rete sia un golem costruito che in qualche maniera ci sta impedendo di... Anzi, penso che abbia aumentato le capacità di informazione, che in qualche maniera abbia anche favorito i processi democratici e stia imponendo alla politica, e non solo alla politica, di automigliorarsi da tanti punti di vista. Vedo però, come dire, che perché io sono sono a difesa delle democrazie liberali perché non abbiamo conosciuto come sono adesso, non perché sono un liberale, ma perché penso che fino adesso non sia stato costruito un sistema migliore di questo, e quindi io me lo voglio tenere. Poi, quando verranno prodotte democrazie dirette avanzate tipo la Corea del Nord, allora probabilmente potremmo anche fare a meno di questa discussione. Però il tema è questo qua, cioè non tanto adesso c'è tutto il sistema sulla Russia che avrebbe influenzato. Io dico una cosa, adesso non so esattamente quanto o che cosa sia successo, però immaginare... C'è un articolo di Jacoboni che è una ricerca di 46 pagine che abbiamo letto tutti ieri. Sì, ma io lascio stare Jacoboni, non è Jacoboni, perché il tema era Shagate, la settimana scorsa la commissione del Senato che ha chiamato gli over the top e ha chiesto che fosse stata fatta pubblicità. Ora, al di là del fatto di immaginare che continuiamo a considerare gli elettori dei poveri imbecilli quando non votano le cose che non ci piacciono, perché poi il problema di Trump... Il problema è la lettura. Ora faccio una domanda: ma se avesse vinto la Clinton, staremmo a parlare di fake news? Ci do la risposta? No, non ne staremmo parlando. Okay? No. Se alla Brexit avesse vinto il Remain, staremmo parlando di fake news? No, non ne staremmo parlando. Cioè, noi abbiamo preso un tema vero, che è la disinformazione online, e l'abbiamo politicizzato in maniera estrema. Tanto che abbiamo svuotato il significato. Abbiamo svuotato la fake news e abbiamo lasciato solo il significato. Cioè, fake news lo utilizza tanto Washington Post contro Trump, tanto Trump contro il Washington Post. E è chiaro che in questa discussione, in questo rumore, no? Ecco, in questo rumore le persone non riescono più a riconoscere l'età. Ma immaginare addirittura che una democrazia, la democrazia più importante di questo paese, di questo mondo, le due democrazie più importanti, quelle più antiche, cioè l'Inghilterra e la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, no? Sono state manipolate da una potenza straniera, significa considerare le democrazie, queste grandi democrazie, meno di zero. Io perciò rifiuto questa struttura. Sono abbastanza convinto che ci sia stata un'interferenza. Io sono abbastanza convinto. Ma immaginare che democrazie così strutturate siano state manipolate da una potenza straniera significa far valere meno di un asse queste democrazie. Io invece penso invece che Trump ha vinto perché ha vinto era un candidato sbagliato, non perché Trump abbia manipolato. Cioè, questo si può dire, sì. No, si può dire che se la Clinton invece di fare 3 mesi di demonizzazione di Trump, che era brutto, fascista, sessista, mettere le mani sul culo delle donne. Ma abbiamo capito che quel tema lì agli elettori non è esposto, come dire che Di Maio è ignorante. Scusa, a me mi ricordava la storia, a me la demonizzazione dell'avversario mi ricordava la storia, cioè noi siamo andati avanti per 20 anni in questo paese a dire che Berlusconi era un corruttore, la gente lo votava, andava con le donne. Non funziona, ma non funziona per due punti, al di là del fatto che non funziona perché tu costruisci appunto il fatto che poi tu stai andando su un terreno che non è tuo, cioè la gente non voterà mai perché l'altro fa schifo, la gente ti voterà perché tu hai un minimo di proposta, anche radicale, anche iperpopulista, anche di cambiamento. Questo vorrei che noi capissimo verso le elezioni, ma temo, diciamo, che... Non lo capiremo. Visto la continua discussione, cioè sono 3 giorni che ho gente più o meno, diciamo, non troll, ma gente più o meno che conosco, che in qualche maniera sosteneva la comunicazione del PD, che mi rompe le palle perché io dico che è inutile attaccare Di Maio. E guardate, è inutile dire Di Maio, perché non è che se tu racconti con ignorante la gente smetterà di votare, pensa solo se è un fighetto insopportabile che sta facendo la professione. No, perché, ma è così, capito? Ma perché c'è una, se per e mi dicono che io invece non capisco niente, invece che se dice strozzate bisogna riprendere. E vabbè, riprendetelo. Poi quando Di Maio prende il 30% a marzo, poi ne riparliamo. E si riderà. E il tema mi piace tantissimo, anche perché nel momento in cui parliamo di ingerenze straniere, vi voglio citare cosa mi ha detto un mio conoscente, un elettore di Ingroia. Mossa del cavallo. Sì, uno sta a Napoli, comunista de più, così. Sì. È comunista di Ingroia. Sì, questo non lo so. Si dichiara, cioè, classico. Diciamo che adesso sono uniti Ingroia e Giulietto Chiesa, abbiamo unito due devianze in un corso solo, l'associazione italiana. Io non riesco a capire un comunista che è di Ingroia. Ma neanch'io, ma io forse volevo votare in grado, ho confuso le vocali. Ah, okay. Bene. Lui mi diceva, guarda che voi del PD, questo è Luigi categorizza così, state sbagliando, voi PD di me, sì, voi traditori, state sbagliando una cosa, una visione di base, sulle fake news continuate a non capire una questione. Il problema è che vi siete scordati le cinque colonne dell'imperialismo che ti si fanno studiare quando se frequenti lotta comunista. Di fatto l'Occidente è diventato un imperialismo morbido, perfino un po' vecchio e un po' malaticcio, e ci sono paesi giovani pieni di sangue ribollente, come la Cina e la Russia, che a colpi di hacking e disinformazione progettata, cosa che fanno da tempo, però disinformazia esiste... Ci ha fatto un libro, ma esiste da prima, di Francesco Nicodemo, seppure adesso conoscono nuovo giovinezza Aurora. E non state capendo che voi continuate a essere il solito occidente vecchio che muore di fronte a spinte imperialiste che passano attraverso la nuova guerra, che è quella sulla disseminazione del non sapere o del sapere sbagliato. E non so cosa ne pensate voi, una bella domanda fuori rete, e vorrei dargli una risposta, ho tergiversato, ne parlo con Paolino e Nicodemo, poi gli dico. Beh, io risponderei semplicemente che... Voti Ingroia, zitto! Così. Nella guerra, a parte voti Ingroia, zitto, però nella guerra precedente succedeva che magari tu potevi informarti sugli spazi di libertà rara, spazi di libertà nella dissidenza Putin di una decina d'anni fa, e aprivi Repubblica e leggevi un bel pezzo sulla Politkovskaja, un pezzo su Litvinenko, su Polonia, cioè poi... Poi ne hanno uccisi tutti. Poi, sì, no, infatti, insomma, li sto citando a caso. Io quando cito i giornalisti italiani è sempre un cimitero. Notate bene che li cita morti, farvi capire cosa pensa lui dei mezzi tradizionali. No, adesso non arriviamo a questo. Quelli vivi sono un po' le foglie di fico del grande giornalismo d'inchiesta, cioè non sono certo loro a sostenere economicamente i giornali. Però tu leggevi Repubblica, Litvinenko, Politkovskaja, adesso le Pussirai, poi in mezzo, guarda, un inserto di 8 pagine che a colori, che descrive le meraviglie della Russia di Putin, e tu lo leggevi tutto, scritto benissimo, anzi direi scritto meglio del resto del giornale. Poi vai a vedere, perché un minimo di gerenza, tra virgolette, del pub redazionale ci deve essere, scopri che è fatto questo inserto a pagamento realizzato dall'agenzia Gazprom. Capisci che sono 8 pagine di putinismo puro nel giornale che tu conti per sapere che succede, eccetera. Allora, di quale guerra, dice la nuova guerra, ma di quale guerra stiamo parlando se i media che dovrebbero garantirci la pace sono questi? Ecco, questo è un po'... Io ripeto, continueremo a leggere tante analisi su questi temi, però nel piccolo libro che ho scritto io, che è molto meno ambizioso di quello di Francesco, cerco di dare almeno una chiave di lettura che permetta alle persone di tenere sempre presente la famosa domanda, sì, ok, ma se leggo questo, chiedersi a chi giova, chiedersi qui protesta, non equivale a essere dei complottisti grillini tutte le volte. Poi il grillismo sia stato costruito molto su questo, siamo d'accordo, no? E poi forse schierarsi con quelli a cui giova. Esatto, per esempio. Però, ecco, io penso che prima di quella nuova guerra che dice l'elettore d'Ingroia, ci siano altre guerre importanti da combattere in casa contro chi alla fine non ha motivazioni nobili, come quelle magari che ha Francesco nella sua battaglia politica, che lui combatte una battaglia politica, sono persone che con obiettivo nobile hanno arrivare alla pensione. Auguri, ecco, meglio vincere la guerra, ecco, forse più probabilità. Ecco, se risolviamo anche questo pezzo del racconto, abbiamo fatto un grande passo avanti. Va bene. Quindi voi sapreste dirmi esattamente chi è il nemico in questo momento? Sei tu, perché non ci fai bere il gin. Giusto. Punto primo, tirando la tagliola lunga. Però... Ho promesso un'ora, siamo andati lunghi 5 minuti. Chi è il nemico? Chi è il nemico? C'è un grande vecchio, no, c'è un cattivo? No, siamo noi. Un grande vecchio assolutamente no. Ci sono tanti problemi, non nemici che sono delle persone, che sono i cattivi, che sono i manovratori, eccetera. Il troll sul ponte che fa la foto a Londra, secondo me equivale più o meno al direttore responsabile di Russia Today. Per contestualizzare, il troll sul ponte è il tizio che ha fotografato la donna musulmana al telefono, sì, durante l'accoltellamento. Quello è un esperto ponte di framing, certo. Quello è un esperto di framing che ha capito in quel momento che danno può produrre. È esattamente come un esperto di framing, è Mentana che sa che deve dire certe cose. O Hermes Maiorica. Adesso non voglio, ripeto, mettere tutti in incarnazione, perché non puoi mettere Mentana allo stesso livello del troll sul ponte, siamo d'accordo. Però sono dei professionisti di una macchina che deve fare soldi. Non dimentichiamo questo problema, che è gravissimo, la sostenibilità economica di quel sistema dei media, che chiaramente nella lista di priorità mette la propria sopravvivenza al primo posto, il proprio ruolo per risolvere le famose guerre al secondo, terzo, quarto, quinto posto. E questo dobbiamo essere tutti consapevoli. E la teoria di Matteo Grandi, di cui ho presentato il libro, questo lo sai dire? Nemico. Sì, poi dici che è il nemico. Fluxus diceva il tuo nemico è la tua battaglia, e quindi penso mi risponderai questo. Ma esatto. Matteo Grandi dice, la sua teoria è che il fenomeno delle fake news è 80% soldi e 20% politica. Adesso i numeri li ho messi io, ma vero è, questi ragazzi di Agrigento facevano 5-6 mila euro al mese generando notizie. Ormai Google ha cambiato le policy di altri. Sì, vero, era anche un po'. Già superato. Anche perché normalmente i cattivi li becchi per soldi, a partire da Al Capone, che però disse una cosa interessante sulla società americana. Disse, io ho prosperato perché la società americana era alla ricerca di fantasmagorie. Allora, se Al Capone era il nemico additato, pubblico, numero uno, chi è il nemico? Ah, il nemico è l'algoritmo. E l'algoritmo? Sì. E la cultura dell'algoritmo? Secondo me il legislatore si occupare di questo tema. Algoritmo e gestione dei dati. I dati che gli utenti hanno regalato in maniera, diciamo, semplice a Liberto. Vogliamo dire che il nostro al 9000 e questo sistema... È un po' più subdolo il tema dell'algoritmo, perché al 9000 tu lo vedi, dici, ah, questa è un'intelligenza, cioè, l'algoritmo non te ne accorgi neanche, cioè l'algoritmo lavora su di te e tu non te ne accorgi, lui lavora su tutto quello che... sulla tua volontà di dargli dei dati, di dargli dei temi. Poi un'altra cosa, visto che sono scordato prima, dico no. Poi faccio l'ultima domanda. Meno, no, basta. Cioè, c'è ancora una bere, meno metodo Burioni, più metodo Gianni Morandi. Mi sembra hai visto. Foto di Anna. Allora, visto che io sono sempre una parte, Maurizio Costanzo, ultimamente anche come stazza, riprendo l'IVA, ma sto giro facciamo così, cioè uno tiene il libro dell'altro e devi esibirlo con grazia. Però metto gli occhiali per dargli autorevolezza. Certo, così mi roba. Tenetelo qui, sorridete in favore di camera. Un'ultima domanda, a testa avete pochissimi secondi, proprio Maurizio Costanzo classico, cosa c'è dietro l'angolo? Allora, dietro l'angolo, secondo me, il serra che cominciano a rompere quelle scatole è, diciamo così, voglio lasciarvi veramente con un messaggio ottimista, cioè molte cose vanno a posto da sole se le persone sono intelligenti. Certe volte anche se le persone non sono intelligenti. Questo forse è il caso. Faccio l'esempio di Villa Borghese qui a Roma, quando andavi in giro 2 anni fa era tutto marrone, improvvisamente è diventato tutto verde, eppure con l'erba bassa, sembra che siano veramente passati i greenkeeper. È perché la Raggi improvvisamente ha deciso di curare il verde pubblico? No, semplicemente perché ha piovuto casualmente il giusto, e sembra pure che l'erba è bassa perché qualcuno la taglia, chiaramente tra un paio di mesi sarà una selva, se va avanti così, però questa è un'immagine metaforica che ci fa capire che a volte davvero le sorti progressive non nascono dal genio di Winston Cerf che inventa il protocollo TCP/IP in modo che sia interoperabile, impedendo quindi di avere la internet di Bertelsmann contro la internet di Berlusconi, contro la internet di Murdoch, cioè di Murdoch. Di Caltagirone sarebbe andato molto male. C'eravamo quasi con CompuServe, con American Bell, esatto. No, certe volte succede anche che il sistema ti manda casualmente dei messaggi di autocorrezione dell'errore, un po' come gli stessi protocolli, eccetera. Allora, io se devo trovare delle note di ottimismo, in questo momento non le sto vedendo grazie alle decisioni illuminate di qualcuno. Cioè, forse Rodotà qualcosa prima di lasciarci aveva messo sul piatto alcuni temi importanti, ma adesso che non c'è più lui, francamente, almeno nello scenario italiano, non si vedono quelli che oggi danno la spallata e improvvisamente tutti aprono gli occhi e dicono va bene. No, in realtà io quello che vedo è che Michele Serra comincia a calmarsi. E pian piano Lily Gruber, che fa la puntata Tiziana Cantone uccisa dalla rete, sembra improvvisamente una grande professionista operatrice dell'infotainment. E la gente non è così profondamente stupida da girare nella ruota del criceto all'infinito. Quindi cosa c'è dietro l'angolo? Qualche messaggio positivo gioiosamente casuale. Insomma, la serendipity del progresso, va bene. Chiamiamola così. E dovendo associare, ovviamente ogni una di queste cose verrà associata a una canzone, la tua è Let the Good Times Roll. Può funzionare? No. Sì, può andare bene. E c'è anche in versione jazz, facendo le passioni. Che c'è dietro l'angolo? La morte talk show, per fortuna. Sì, questo sì, inclusi questi, quindi, e del linguaggio dei talk show. Forse dei danni. E soprattutto c'è del gin tonic della Gigasco che stiamo per bere. Grazie a... La canzone mia, vuoi, scusami. Ah già, è vero, è la morte di... Non ho idea. Tu hai scordato me. Tu hai scordato me, giustamente, di Liberato, di cui siamo grandi fan. Della dimostrazione... Soprattutto perché vogliamo conoscerlo. Sì, che l'identità fa danni, infatti. Quindi le domande davanti al gin, così sì. Saranno più creative. Questo è ovvio, ma non lo vedrete quindi in più appartenenza, meno identità. Questo da sempre. Leggete tutti Francesco Remotti contro l'identità, è un libro fondamentale. Però scusa Enrico, adesso arriviamo al clou della serata. Sì. Signori e signori, Samantha Leone da Torino. Prego. Vieni. No, ci devi raccontare c'è il gas, cosa sono queste cose qua dietro. Prima che assumano una forma non vendibile. Arrivo, fai sposta. Sto il prof. Questa idea è Samantha. Ciao. Finiremo questo dibattito bevendo il gin tonic con Gegasco, che è un prodotto di Torino, un mixer made in Italy, completamente naturale. Dovete assaggiarlo perché raccontarlo non basta. Avete domande? Sì. Sì. Quando si beve? Si beve subito. Allora, prosit. Subito è freddo, prosit. Okay. Grazie a tutti, grazie a Francesco Nicodemo.